Buonasera a tutti, buonasera, grazie. Benvenuti alla prima serata della Scuola Genitori 2015, che quest'anno l'AGE ha organizzato insieme all'Ufficio Famiglie della Diocesi. E quest'anno si tratta proprio del quinto anno, per cui noi siamo tutti molto soddisfatti del traguardo raggiunto. Abbiamo iniziato nel 2011 portando qui a Mondovì Ezio Aceto, e ci aveva proprio detto, non so se qualcuno di voi lo ricorda, dovete studiare da genitori, non è che si nasce imparati, quindi andate a scuola. L'abbiamo preso in parola e l'anno successivo abbiamo avuto qui con noi il sessuologo Fabio Veglia, che ci ha intrattenuto per tre serate parlandoci dell'affettività, dell'educazione all'affettività per i nostri figli. Poi nel 2013 abbiamo affrontato il discorso dei genitori e il web con il professore Cesare Rivoltella dell'Università Cattolica di Milano e dei suoi collaboratori, quindi arriviamo all'anno scorso in cui il tema era il rapporto dei nostri figli con lo sport e le varie sfaccettature che abbiamo affrontato con Don Albertini, Roberto Mauri e il dottor Paolo Crepaz. E questo percorso, non volevo dimenticarvi che abbiamo anche portato a Mondovì lo spettacolo di Andrea Zorzi, pallavolista volante, che è stato bellissimo. E questo percorso arriva fino ad oggi, in cui per ben due serate abbiamo la fortuna di avere qui con noi il dottor Alberto Pellai, che adesso Davide vi presenterà nei dettagli. Grazie Sara, è la presidente dell'AGE. Quest'anno anche come ufficio famiglia abbiamo detto: perché non ci mettiamo insieme e facciamo una cosa che possa andare bene per tutti? E quindi eccoci qua a presentare e iniziare queste due serate. Mi veniva da dire che qui a Mondovì siamo un po' duri di comprendoni, allora andiamo di nuovo a ripetizione, per cui alcune tematiche dopo qualche anno andiamo di nuovo a ripeterle, in particolare quella di questa sera, che ha un titolo molto interessante, Tutto troppo presto, e un sottotitolo altrettanto interessante che poi presenterà Alberto Pellai. Lo abbiamo chiamato da diverso tempo, qualcuno di noi ha avuto modo di conoscerlo a un incontro qua vicino a Fossano, in un ambito di una serie di incontri interdiocesani, altri lo conoscono per la sua trasmissione radiofonica di qualche anno fa su Radio 24, molti... Questa casa non è un albergo, è preparatissima, sulla radio sa tutto Sara, bravissima, era bellissima, poi qualche problema c'è stato. Molti lo conoscono come colui che risponde alle domande delle mamme sulla rivista settimanale Famiglia Cristiana, e altri per quanto ha scritto. È una penna facile, come si dice, e felice, grazie, e anche un appassionato oratore. In quanto genitore, sposo, ha quattro figli e quindi sa di cosa parla, nel bene e nel male. Dall'ultimo libro, che poi presenteremo alla fine, leggo qualcosa di lui: medico, psicoterapeuta dell'età evolutiva, ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Biomediche dell'Università degli Studi di Milano, dove si occupa di prevenzione in età evolutiva. Nel 2004 il Ministero della Salute gli ha conferito la medaglia di argento al merito della sanità pubblica. È autore di numerosi libri rivolti a genitori, insegnanti, adolescenti e bambini. I titoli sono molto evocativi, poi verso la fine diremo ancora qualcosa, ma all'uscita li troverete su un banco e sono disponibili per l'acquisto. Le parole non dette, Nella pancia del papà, Mamma cos'è l'amore, Da padre a figlia, Questa casa non è un albergo, appunto ispirato alla trasmissione di Radio 24. Poi c'è Il primo bacio, I papà vengono da Marte, Le mamme da Venere, ma di questo credo ne parleremo domani. Ci siamo accordati in questo modo, gli abbiamo detto che la platea è non solo numerosa ma anche qualificata, insegnanti, genitori, anche fuori da Mondovì vedo diverse coppie, diversi amici. Gli lasciamo la parola, che sarà una parola anche che sarà guidata anche dai media, e poi lasceremo uno spazio per il confronto e le domande, quindi chi ha un foglio per prendere appunti lo può fare e poi tenersi qualche domanda per vivacizzare il dibattito. A lui la parola, grazie a voi della presenza. Io e Sara forse staremo qui, forse in giro, se c'è bisogno di qualcosa ci sentiamo. Parli con quello, quindi questo lo spegniamo. Bene. Allora, buonasera a tutti. Ringrazio per l'invito e per l'accoglienza, è la prima volta che vengo a Mondovì e sono molto colpito dal fatto che siamo davvero in tanti. Spero che sarà una serata interessante e soprattutto utile per noi genitori, per noi educatori. E l'idea che ho è quella di provare ad approfondire con voi alcune considerazioni educative, condividere con voi alcune considerazioni educative ed alcune riflessioni su un tema dove succede spesso che noi genitori siamo un po' sprovveduti, un po' inconsapevoli, e dove di frequente poi può capitare che i nostri figli si mettano a rischio o nei pasticci, ed è quella zona della vita dei nostri figli dove da una parte la loro programmazione biologica li porta ad esplorare in modo attivo il territorio della sessualità, a perseguire in modo attivo una curiosità che è fisiologica nei confronti della sessualità. Molto però di questo lavoro di esplorazione, ricerca, curiosità, in questo momento i nostri figli lo fanno dentro al mondo del web e utilizzando le tecnologie. Credo che questa sia una delle sfide che avete già affrontato anche in passato nella vostra scuola per genitori. Siamo un po' la prima generazione di adulti che sta crescendo una generazione di figli che sono nativi digitali. E in molti casi ci troviamo effettivamente sguarniti di competenze rispetto ai loro bisogni. Se io dovessi darvi un'immagine che per me rispecchia bene quello che vedo nel mio studio di psicoterapeuta, l'immagine è questa: figli molto davanti e genitori che corrono dietro arrancando con la lingua fuori e sbuffando e cercano di afferrarli, cercano di raggiungerli, ma loro sono già oltre. E questo effettivamente rovescia la posizione genitoriale che da sempre un po' accompagna la crescita di un figlio. Cioè il genitore sta davanti, presidia il territorio, guarda quello che il figlio vorrebbe in qualche modo esplorare, eventualmente fa strada e lascia passare per le libere esplorazioni del figlio, ma in una zona di controllo, in una zona che conosce, in un territorio di cui ha il passepartout, è una chiave d'accesso, e quindi può davvero guidare un figlio e permettergli di stare in una zona dove non si fa del male, dove magari corre anche qualche rischio, ma in modo abbastanza protetto. Ecco, negli ultimi anni, chi fa il mio mestiere, questo ha colpito molto me nel mestiere che faccio, mi è capitato molto di frequente di lavorare con genitori che portavano i loro figli chiedendo aiuto e dicendo: a casa nostra è successo qualcosa che noi non ci saremmo mai aspettati. Mio figlio si è messo in un pasticcio, oppure mio figlio ha fatto delle cose che io non avrei mai immaginato che mio figlio potesse fare. Conseguentemente adesso abbiamo un problema, oppure forse mio figlio facendo quelle cose ha un problema e noi non lo sappiamo gestire. Per favore ci aiuti. I temi sono ragazzini molto giovani o bambini davvero di quarta e quinta elementare che esplorano la pornografia online, ragazzine di 11, 12, 13 anni che nei loro social network entrano in relazioni con persone che non conoscono, oppure postano di se stesse delle immagini che hanno una notevole connotazione sessuale e conseguentemente possono diventare immagini autolesive, senza che neanche se ne rendano conto bene. In generale, c'è una fortissima accelerazione rispetto ai bisogni che sono fase specifici, una fortissima accelerazione a entrare in una zona di eccitazione sessuale e sessualizzazione del proprio percorso di crescita, dentro un contesto virtuale, dove apparentemente non si rischia più, come si rischiava 20 anni fa, una gravidanza indesiderata o una malattia a trasmissione sessuale, però si rischia molto rispetto al proprio equilibrio psicologico, emotivo, a quella zona di sviluppo che in realtà va un po' sostenuta, va un po' accompagnata. Una delle cose che mi colpisce tanto è che io vedo genitori spesso che sono iperansiosi, iper preoccupati che i figli non si facciano male nella vita reale e che allo stesso tempo invece spesso crescono dei figli che sono veramente orfani nella loro vita online. E quello che vorrei un po' fare con voi stasera è aiutarvi a vedere il bisogno che i figli hanno nella loro vita online o rispetto al loro uso delle tecnologie. C'è davvero bisogno che mamma e papà siano lì al loro fianco, abbiano un progetto educativo, altrimenti nell'inconsapevolezza alcune delle cose che loro possono fare possono rivelarsi davvero pericolose per il loro sviluppo. Provo a darvi un esempio concreto di nuovo di una mia paziente, una mamma che arriva da me molto molto in ansia perché il figlio è di seconda media. Quell'anno ha deciso di non voler più andare a scuola accompagnato dalla mamma, ma di volerci andare in bicicletta. Io abito in provincia di Varese, questa mamma, questa famiglia ha una casa a circa 2 chilometri dalla scuola. Per raggiungere la scuola bisogna fare una via, una strada molto molto trafficata. La mamma arriva piena d'ansia e dice: questa richiesta di mio figlio, secondo me, è troppo pericolosa, lo mette sinceramente a rischio. Io trovo che il ragazzino potrebbe in realtà trovarsi in difficoltà o trovarsi a rischio. Nella mia percezione invece il ragazzino sta facendo veramente bene il suo lavoro di preadolescente. La bicicletta è uno straordinario strumento della crescita in preadolescenza e fondamentalmente sta dicendo: io non sono più un bambino delle elementari e non ho più bisogno di una mamma che mi accompagna davanti a scuola perché riesco ad andarci io. La mamma però è così in ansia che loro non riescono a risolversela quella cosa, quindi fondamentalmente porta da me il suo stato ansioso, dice: mi aiuti a essere un po' meno ansiosa, facciamo un progetto. Io punto sul fatto che il ragazzino di 12 anni quando esce dal cancello non si butta in automatico sotto un tir, qualche competenza autoprotettiva ce l'avrà e poi lo possiamo anche allenare, no? Per 3-4 giorni la mamma o il papà possono andare in bicicletta anche loro e verificare in quel percorso eventualmente quali sono i punti critici dove bisogna fare particolare attenzione e poi lo si può provare a lasciare andare. Io faccio con lei la scommessa che dobbiamo provarci per 7 giorni per vedere se da lì a una settimana siamo rimasti tutti vivi, il figlio, la mamma e il suo terapeuta, e se ce l'abbiamo fatta possiamo andare avanti, perché l'intuizione che ho è effettivamente che la mamma abbia un codice materno che è troppo da bambino delle elementari, per cui non riesce davvero a regolarsi rispetto alle richieste adeguate che il figlio le sta facendo. Effettivamente dopo 7 giorni siamo tutti vivi e questo ci permette un po' di lavorare sul livello d'ansia della mamma, ma di imparare un po' anche a guardare che cosa sta succedendo nella vita di questo ragazzo che è figlio unico, che passa molto tempo in casa e che quindi quando chiede di andare in bicicletta, di nuovo nella mia percezione, sta davvero facendo un buon lavoro su se stesso. Da lì a 3 settimane circa, quello che scopriamo è che il figlio da alcuni mesi naviga in siti pornografici, e lo scopriamo perché alla mamma che mi racconta che il figlio per ore sta chiuso in camera con la porta chiusa e che se uno entra lui chiude il coperchio del suo computer, io dico: guardi, noi dobbiamo proprio immaginare che questo figlio sta diventando grande, forse alcune di queste caratteristiche ci dicono che sta facendo col computer cose su cui è bene che noi adulti siamo consapevoli. Il papà in realtà fa una ricerca nella cronologia, a quel punto, su questo spunto che diamo, questa cosa li colpisce moltissimo. Direi che la fotografia di questa mamma che ha paura della bicicletta, al punto da avere una vera e propria crisi d'ansia, ma che non immagina minimamente che un figlio di seconda media che sta per molte ore chiuso in camera col suo computer potrebbe trovarsi in una zona di rischio e di pericolo, secondo me è una buona fotografia di alcuni dei genitori con cui ho lavorato io in questi anni, che hanno un po' ispirato poi anche le storie raccontate nel libro Tutto Troppo Presto, cioè genitori che fondamentalmente lavorano moltissimo, si occupano e si preoccupano moltissimo dell'incolumità fisica dei figli, ma che rispetto invece a un sostegno e a una protezione nell'area più emotiva, più psicologica e proprio anche più sessuale nel loro percorso di crescita, non hanno le idee chiare e conseguentemente le cose possono succedere in modo abbastanza caotico o disordinato. Una delle cose che per esempio a me colpisce tanto è che nell'arco di 10-15 anni non solo sono cambiati in modo potentissimo e molto intenso i consumi di tecnologie da parte dei nostri figli, ma è cambiata tantissimo l'atteggiamento degli adulti nei confronti dell'uso delle tecnologie da parte dei figli. Se io 10 o 15 anni fa avessi tenuto una serata coi genitori come quella di questa sera, avrei avuto nel dibattito tante domande di adulti che mi chiedevano: ma secondo lei mio figlio questo Natale vuole il cellulare, io glielo compro, è pronto? Perché io sono un po' in dubbio. E quando io chiedevo: ma quanti anni ha suo figlio?, la risposta media di un adulto che 10-15 anni fa mi faceva questa domanda era: mio figlio ha 15-16 anni, cioè un cellulare entrava nella vita di un figlio dopo le scuole medie, e stiamo parlando di un cellulare che faceva telefonate, inviava SMS, punto. In questo momento la gran parte dei nostri figli ha in mano uno smartphone, il che significa che ha in mano uno strumento molto complesso che gli permette di fare un'infinità di cose. Quando mio figlio Jacopo, alla fine della terza media, ha avuto in mano il suo primo cellulare, la sua preoccupazione non era avere un abbonamento che gli permettesse di fare telefonate, ma era avere un abbonamento che gli permettesse di gestire molti gigabyte durante il mese, e quindi quella era la cosa che su cui lui era molto attento, cioè quanto posso navigare, quanta potenzialità di navigazione mi dà questa tariffa. In questo momento, se osserviamo un po' i consumi dei nostri figli rispetto alle tecnologie, quello che mi colpisce è che uno smartphone entra nella vita di un figlio tra i 9 e i 10 anni, più o meno nel 50-60% dei casi. Mi informavo stasera da Davide e Nicoletta quando fate voi la prima comunione e la cresima, perché noi siamo proprio reduci da queste feste nella nostra parrocchia, e io ho 4 figli, quindi io ogni anno ho qualcosa in giro. E quello che scopriamo è che quest'anno il cellulare è stato sdoganato come regalo della prima comunione che da noi si fa in quarta elementare. Quindi è il regalo ufficiale per un bambino di 9 anni, e rifletto sempre sul simbolismo. Io e gran parte di noi probabilmente per la sua prima comunione ha ricevuto un orologio, e io ho il ricordo della mia maestra che il 30 di aprile ha fatto mettere a noi suoi alunni questo avviso sul quaderno: auguri a tutti i bambini che domani faranno la prima comunione, quelli che ricevono un orologio il 2 maggio lo possono portare a scuola, dal 3 maggio no, fino alla fine dell'anno scolastico. E quello che aveva in mente lei, credo, nel dare questo avviso era che questa cosa qua per lei era parecchio complessa e aveva bisogno di un tempo di addomesticamento e di, in qualche modo, sostegno educativo che lei non aveva intenzione di fare a scuola. Diceva: aspetta la famiglia, e io li avrò dotati di orologio dal 1° di ottobre dell'anno scolastico successivo. Se io guardo che cosa succede a molti bambini di 9 anni, no? A questo punto, che hanno in mano il loro primo smartphone, e chiedo ai genitori quali sono stati i riti di consegna, molti dicono: ma veramente siamo dovuti andare a un negozio di telefonia perché è obbligatorio che ci sia un genitore, un adulto garante nel momento in cui facciamo il contratto, e quindi io mi sono occupato del piano tariffario, punto. Quindi effettivamente in molti casi la consegna di questo strumento vede l'adulto come colui che presidia la zona del contratto, le regole economiche che stanno alla base dell'utilizzo dello strumento, ma quasi più niente, non arriva quasi altro, nessun altro messaggio. In quel vuoto lì, in quel vuoto che gli adulti lasciano, spesso i nostri figli non hanno la percezione di qual è un'aspettativa che l'adulto ha sul loro uso delle tecnologie, e conseguentemente ne fanno l'uso un po' sprovveduto, un po' maldestro, che a 9, 10, 11 anni puoi fare di una cosa di questo tipo. Questo è oggettivamente un trend, una tendenza epidemica. Provo a darvi di nuovo un esempio. Da me arrivano a volte dei genitori che dicono: dottore, faccia una valutazione a mio figlio, perché alle elementari andava molto bene, a scuola o andava abbastanza bene, alle medie va malissimo, e quindi magari ha la dislessia. Io mi fermo e dico: guardi, un disturbo specifico dell'apprendimento di solito lo riconosciamo in seconda elementare, se non l'abbiamo mai riconosciuto prima è difficile che compaia così all'improvviso in prima e seconda media. Dopodiché provo a verificare: ma mi aiuti a capire bene com'è lo stile di studio del figlio, no? Nel passaggio da elementari a medie cosa succede? Qual è il setting, proprio il modo con cui lui sta sul suo libro? E questo lo faccio perché, insomma, come papà di 4 figli, io mi rendo conto che questa è proprio una di quelle cose che va un po' presidiata. E allora, per esempio, scopro che il cellulare è sempre a disposizione. Quindi abbiamo magari un figlio di seconda media che deve studiare Napoleone nei prossimi 35 minuti e che intanto ha di fianco il suo cellulare, e lui magari appartiene a 5 gruppi WhatsApp. 5 gruppi WhatsApp nei 35 minuti in cui devo studiare Napoleone possono significare 40, 50, 60 messaggini, che sono 40, 50, 60 segnalazioni sonore, tin, tin, tin, e anche luminose, si illumina lo schermo. Adesso io non ho idea di chi siano i vostri figli, io a casa mia non ho dei supereroi, per cui se Jacopo ha lì il suo cellulare che per 50 volte gli fa la segnalazione sonora che è arrivato un messaggio, Jacopo per 50 volte interrompe Napoleone e si guarda i suoi messaggini. Se invece vostro figlio dice: no, no, stai tranquillo che io prima faccio 45 minuti di Napoleone, poi faccio una piccola pausa e li recupero tutte. Se vostro figlio è in quella zona lì, perfetto, potete lasciare il posto libero, anzi venite qua voi. Io non ce l'ho un figlio così, nella mia collezione di 4 non c'è. E quello che noto è che effettivamente la gran parte dei nostri figli non ha questa capacità, ma perché è proprio una capacità che lo strumento non dà al suo utilizzatore, non lo dà neanche a noi adulti, che abbiamo un flusso a volte molto molto interrotto, molto molto disattento, siamo davvero iperstimolati molte volte, ma parecchio sconnessi. Provate a riflettere qual è la zona franca della nostra vita in cui noi riusciamo a stare lì, dove dobbiamo essere, nel qui ed ora, e sulle nostre relazioni. Per molti di noi questa non è una cosa che riesce facile. Io lo vedo per esempio facendo lezione in università. Sono proprio i primi anni che mi accorgo che faccio lezione a studenti che nelle aule wifi prendono appunti, aggiornano il loro profilo Facebook e intanto mandano mail tutto in contemporanea, e questa cosa qua mi colpisce tanto, perché davvero io mi sento sconnesso dall'aula, anche se loro hanno la percezione di essere lì a fare esattamente quello che devono fare. Quando hai dai 10 ai 14 anni, quel genere di interruzione, sconnessione, iperstimolazione, sollecitazione un po' caotica, effettivamente è troppo disordinata. Quello che ci dicono le neuroscienze è che il cervello dei nostri figli, in particolare proprio tra i 9-10 anni e i 14-15, ha delle caratteristiche funzionali, strutturali, anatomofisiologiche, che sono uniche nel nostro ciclo di vita, perché voi dovremmo un po' immaginare che il loro cervello è fatto in questo modo, ha una zona che si attiva molto sulla parte delle emozioni, dell'eccitazione, della ricerca di sensazioni di piacere e di gratificazione. Questa è la zona limbica, la zona dove ci sono strutture come l'amigdala e l'ippocampo, e la cosa interessante è che tra gli 11 e i 13 anni questa zona è arrivata ad un altissimo livello di maturazione e quindi permette a loro di sentire tantissimo. Se voi riflettete su di noi quando eravamo preadolescenti, voi vi accorgete che la scoperta delle sensazioni del corpo, l'innamoramento che fa battere il cuore, lo stare in classe e avere gli occhi che volano da tutte le parti, tranne che lì, è una cosa che abbiamo conosciuto anche noi, e non è una cosa che avviene a caso, è proprio il nostro cervello che nella zona emotiva, del suo funzionamento emotivo, è molto molto funzionante, è iper funzionante, e conseguentemente tende a portare il dodicenne, l'undicenne, il tredicenne, il quattordicenne, a stare fortemente attivato nella ricerca di sensazioni, emozioni, eccitazione forte. Mia nonna Irma, che non era una neuroscienziata, in quella zona lì diceva che lei vedeva dei ragazzi nell'età della stupidera, e dava proprio una definizione neuroscientifica del funzionamento mentale, cioè diceva, e lo dice anche uno scienziato che non conosceva ancora le neuroscienze, quando parla di pseudo-stupidità, Elkind, pseudo-stupidità del preadolescente, del giovane adolescente, dice proprio questo: sei in quella zona dove le emozioni, dove il tuo cervello che sente, ha il predominio sul cervello che pensa. Io non so come va a voi, ma se io penso a casa mia, i miei figli preadolescenti o giovani adolescenti, se io li lascio da soli davanti alla PlayStation e dico potete giocare, la regola è 45 minuti, punto. Ormai ho scoperto che è un diritto inalienabile dell'infanzia, è scritto probabilmente nella dichiarazione dei diritti dell'infanzia delle Nazioni Unite, quello è una cosa che non si può toccare. Però se io dico 45 minuti, dopodiché loro vanno e giocano e io vedo che sono passati 45 minuti e non hanno finito, e io dico Jacopo, è finito il tempo, la risposta è non è vero, ho appena cominciato. Ma se io gli dico vai di là 45 minuti a studiare storia, lui ogni 10 minuti torna indietro e dice ho finito, basta, non ne posso più. Allora, quello che ci sta raccontando è che il tempo della PlayStation è il tempo del suo cervello emotivo, un tempo fortemente attivante dal punto di vista dell'eccitazione, del divertimento, dell'emozione, e conseguentemente un tempo che cattura tantissimo il suo funzionamento mentale, tanto da non renderlo connesso con nient'altro, entra in un'esperienza di flusso che non finisce più, per cui casa nostra è piena di timer, e vedendo che questa era una cosa costante, no? Il tempo della play e il tempo del papà sono due conflitti che non hanno senso, c'è un tempo che è il tempo, il timer ti dà un tempo che è il tempo, lo punti, finiti 45 minuti quando suona, io mi posso permettere di dire è finito il tempo, e lui non può più dire non è vero, eventualmente mi deve dire posso giocare ancora un po', che è un'altra cosa, ancora un po' quanto, 5 minuti della play, tuoi, miei, del timer, anche lì c'è c'è poi da fare una negoziazione, ma il dato di fatto è che quello che lui mi sta raccontando è che se io lo lascio da solo, lui va in automatico là dove lo sta portando il suo cervello, cioè in una zona di eccitazione, emozionalità, divertimento, ricerca della gratificazione del piacere, che lui da solo non è in grado di gestire, perché per poterla gestire bisogna salire al piano alto del cervello, che è il cervello cognitivo. Il cervello cognitivo non è un cervello che sente, ma è un cervello che pensa, che costruisce significati, che si dà strategie complesse, deve proprio dire: ok, ho mezz'ora, devo studiare almeno mezz'ora storia, me lo devo imporre, mi devo proprio tenere la testa sul libro, perché questa cosa la devo fare. Ecco, questa cosa non la decide il cervello emotivo, la decide il cervello cognitivo, in particolare lo decide questa zona del cervello, si chiama, è la zona dei lobi frontali, è la zona a più sofisticato funzionamento mentale, è dove noi compiamo le nostre funzioni mentali più evolute, più complesse, tanto che se ci pensate l'evoluzione ci ha lasciato in eredità questo gesto. Quando noi siamo pieni di problemi, cosa facciamo? Non ci mettiamo le mani qua, ce le mettiamo qua, massaggiamo, e stiamo perciò stimolando la zona più evoluta del nostro cervello con l'obiettivo proprio di farla lavorare nel miglior modo possibile. Questa zona qua è profondamente immatura, la maturazione del nostro cervello, dicono le neuroscienze, va dal dietro in avanti, dal posteriore all'anteriore, quindi questa è la zona che matura più tardi, e conseguentemente avere competenze integrative di soluzione dei problemi, di analisi delle situazioni, di previsione dei rischi, quando hai 13-14 anni, è molto molto difficile, proprio perché ti mancano le strutture neurofunzionali che ti permettono di farlo. Per cui uno dei messaggi che ci portiamo a casa stasera è questo: noi siamo i lobi frontali dei nostri figli, perché loro hanno davvero bisogno che qualcuno faccia un po' di quel lavoro di presidio. E molte delle cose che vedo succedere invece nelle relazioni genitori-figli legati, allora, le tecnologie li portano automaticamente in una zona che non è quella dei lobi frontali. Quando una figlia è sui social, quando un figlio sta navigando nella pornografia, non stanno facendo esplorazioni cognitive complesse, sono proprio in una zona che è di eccitazione, di divertimento e di emozionalità. E se ci pensate, anche noi in automatico, se io dico a me stesso, apro il sito del Corriere o di Repubblica perché voglio leggere una notizia, è molto possibile che una roba che doveva durare 3 minuti ne dura 30, e che mia moglie mi dice: pronto da mangiare, ti chiamo da 20 minuti, e tu neanche mi senti, per il semplice fatto che io entro in un'esperienza di flusso dove la mia zona cognitiva viene proprio dissociata dalla mia zona che sta invece in un flusso che è più divertente, più eccitante. Io non ho più il controllo delle mie strategie cognitive. Quindi, se questo vale per noi, a maggior ragione vale anche per i nostri figli. Allora, la mamma che mi dice: no, guardi, io in realtà, sì, mia figlia ha 12 anni, è vero, per avere il profilo Facebook bisognerebbe averne 13 anni compiuti, perché questo chiede Facebook ai suoi utenti, di inserire la data di nascita, e se tu inserisci una data di nascita che è inferiore ai 13 anni compiuti, Facebook ti dice non puoi avere il profilo. Allora, se una figlia che ha 12 anni ha un profilo Facebook, vuol dire che ha dovuto mettere una bugia dentro al sistema. Molte delle nostre figlie lo fanno, ok, nessun problema, però è come dire che tu hai un figlio sull'automobile che sta guidando all'età di 16 anni. Allora, se glielo facciamo fare, è cruciale che ci sia un adulto di fianco che monitorizza tutta la situazione ed è lì a costruire cornici solide, perché il comportamento che viene agito non sia un comportamento autolesivo. Se io chiedo alla mamma, mi scusi, ma perché lei allora non è nei contatti di sua figlia di 12 anni? La risposta della mamma frequentemente è perché mia figlia dice che lei vuole la sua privacy e io non posso invadere quella zona lì perché è una sua zona privata. Allora, di frequente io con le mamme dico, ok, andiamo a vedere il profilo di sua figlia. Ha 320 amici, 320 contatti, vuol dire che è la cosa meno privata che esiste al mondo. È molto, molto social. Guardi caso, signora, si chiama social network, non private network. Non funziona come un diario che si chiude dentro un cassetto. Allora è molto importante che i contatti siano 322, i suoi 320 più quelli di mamma e papà, perché effettivamente non per spiare, sia chiaro, ma proprio per sostenere, per mettere cornici. Un esempio che vi do io, abbiamo fatto uscire 2 anni fa un romanzo per ragazze preadolescenti, intitolato Il diario di missione, ambientato nelle scuole medie. La protagonista è una ragazzina di seconda media che ha un corpo un po' ingombrante, molto simpatica, molto competente, ma non è la miss della scuola, e questo le costa caro perché diventa vittima di bullismo. Ma più o meno in tutto il romanzo, poi pian piano viene fuori con il suo modo e riesce bene a ristabilire le regole della classe. L'editore ci dice che questo è un personaggio che deve avere un suo profilo Facebook, e quindi perché le sue lettrici hanno un profilo Facebook, e quindi le facciamo incontrare sul profilo di Ione. Noi come autori facciamo un profilo di Ione con la faccia disegnata in copertina, spieghiamo che siamo gli autori che gestiranno il profilo di Ione, che serve un po' a far incontrare le ragazze che hanno letto Ione, a parlare del tema, un po' del bullismo, un po' dell'immagine corporea, che è il tema principale del romanzo. Ci accorgiamo in tempi veloci che molte ragazze di prima e seconda media entrano, chiedono l'amicizia a Ione, entrano e postano le loro cose. Un giorno una ragazza di cui vediamo il nome, il cognome, la città di residenza e il nome della scuola che lei frequenta, era terza media, fa questa roba che loro fanno tanto, cioè cambia la sua immagine del profilo, e la sua immagine del profilo nuova diventa un'immagine dove si vede un corpo nudo di una preadolescente dal mento in giù, quindi noi non vediamo la faccia, un corpo nudo a cavalcioni di un altro corpo nudo, messo così ad angolo retto, di nuovo non vediamo la faccia, e di quel corpo non si capisce se è maschio o femmina, è proprio un corpo un po' prepubere. Quindi sono due corpi nudi di cui non si vedono i volti, come foto del profilo di una ragazzina che ha il suo nome e il suo cognome, terza media, la sua scuola di appartenenza. Per cui facciamo una cosa che non abbiamo mai fatto, ci sembrava davvero troppo, e decidiamo di mandarle un messaggio privato dove diciamo: siamo gli autori di Ione, abbiamo visto questa foto, forse tu non lo sai, ma se questa foto presenta l'immagine di due corpi nudi di due minorenni, in Italia potrebbe essere un corpo di reato, perché esiste una legge sulla produzione e diffusione di materiale pedopornografico. Quindi tu, mettendolo come immagine del tuo profilo, se l'hai prodotto, sei produttrice e detentrice; se soltanto l'hai preso magari dentro internet, sei una detentrice che fa vedere ad altri minori questa cosa, quindi è molto pericoloso. E in più le diciamo: prova però anche a immaginare che magari nei tuoi contatti c'è un signore a Roma, un signore a Palermo che hanno 30 anni, 40 anni, vedono il tuo nome e cognome, vedono questa immagine come immagine del tuo profilo, non ti conoscono e devono, per esempio, riflettere su chi sei tu. Prova a immaginare quali sono i tre aggettivi che scelgono dentro se stessi per immaginarsi chi sei tu. Lei non ci risponde, ma cambia l'immagine del suo profilo il giorno dopo. Quindi l'intervento educativo è stato fatto. Però la domanda che faccio a voi è: ma com'è possibile? Cioè, è molto... ha senso che una ragazzina di 13 anni, se il suo cervello funziona come abbiamo detto prima, sia davvero magari un po' troppo eccitata, esagerata, esagitata nel suo modo di autopresentarsi. Questa cosa ha senso, però non ha senso che al suo fianco ci siano genitori che non se ne accorgono, che devono gestire una funzione materna e paterna anche in quel territorio lì. E direi che io vi potrei moltiplicare gli esempi, signora. Se su WhatsApp, che hanno tutti i nostri figli nel loro cellulare, quando lo scarichi dentro un cellulare, tu non lo sai, ma ti fa dichiarare che hai 16 anni compiuti. Non devi mettere l'età, ma nel contratto in cui scrivete ok, sono d'accordo, I agree, c'è scritto che bisogna avere 16 anni compiuti. Ora, tutti i nostri figli che non hanno 16 anni e che hanno WhatsApp hanno un'app dentro al loro cellulare per cui loro sarebbero fuori età. Allora è molto importante che se ce l'hanno, io dico a mio figlio, guarda, io però la password del tuo cellulare la voglio sapere. Magari ogni tanto, non per spiarti, sia chiaro. Il concetto è che a me non interessa spiare, il concetto è che io non voglio che tu ti faccia male con quello che c'è dentro al tuo cellulare, quindi io ogni tanto faccio l'adulto e presidio il territorio. Una mamma mi dice, ma mio figlio non me la dà la password, e allora io le chiedo, ma quanti anni ha suo figlio? E io mi aspetto 16, 20, 10 anni, 11 anni, capite che ha senso che loro ci dicano io non te la voglio dare mamma e papà? Quando ce lo dicono stanno facendo il loro mestiere. Non ha senso che noi come adulti rispondiamo ah vabbè allora ok non darmela, perché questo significa avere completamente invertito ruoli e funzioni, cioè è lui che mi sta facendo da genitore, è lui che mi sta dando le regole, ma lui ha 11 anni, il suo funzionamento mentale è quello di un undicenne. Se io dovessi farvi vedere un video brevissimo, dura 30 secondi, che ci racconta un po' esattamente come stanno andando le cose nelle nostre famiglie, questo è il video. Salto, Mirko. Scusate, lo devo aprire con VLC. Arrivo, Sandro, Mirko, Piero, Hermes. C'è suo figlio? Sì, è di sopra in camera sua. Entrate pure. Ciao Bella, c'è Gianni? Sì, è su. Allora andiamo su a divertirci un po'. Bene. Bel posto. Dov'è Gianni? Ah, la so. Buongiorno. Ah, salve. È questa la piccola Anna? Ma che bel coniglietto che hai. Vieni, che te ne mostro uno vero. Nella vita reale proteggereste i vostri figli. Fatelo anche in internet. giovanimedia.ch. Allora, questo secondo me è un video che racconta proprio un mondo di genitori senza lobi frontali. Chiaramente nella vita reale nessuno manderebbe su 3 naziskin, 3 prostitute, 3 supereroi con il mitra nella camera di un figlio, gli daremmo un calcione e gli diremmo fuori da casa mia. Nella vita online però questa è una roba che succede di frequente. I nostri figli di 11-14 anni giocano quasi tutti con Grand Theft Auto, con Call of Duty, che sono PG-18 nella categoria di classificazione dell'adeguatezza del gioco per quale fascia d'età. PG-18 vuol dire che non sono consigliati per i minori di 18 anni ed è l'equivalente se noi tante volte glielo regaliamo a Natale. Per cui a casa nostra è potuto entrare FIFA, ma Grand Theft Auto non ha potuto entrare. E non è che io ho avuto l'applauso di mio figlio, grazie papà che mi proteggi dalle cose che non sono adatte a me. Purtroppo mi sono dovuto sentire un bel po' di robe che a lui non andavano bene, perché tutti ce l'hanno, tutti lo fanno. Quindi perché solo io? Proprio a me doveva capitare Alberto Pellai e Barbara Tamborini di Mamma e Papà. Proprio a te ti è capitata sta sfortuna. E il fatto è che però io ti sono padre in questo modo. Se non va bene, chiamiamo l'assistente sociale e provi a raccontare gli abusi di cui... Il dato di fatto è che nessun figlio ci farà l'applauso quando noi facciamo i genitori, gli adulti con la A maiuscola, che significa a volte dover definire dei limiti e dei confini. Non ci diranno sei un papà meraviglioso perché mi metti dei limiti, saranno molto arrabbiati. E sempre nella logica di funzionamento del loro cervello emotivo, probabilmente sbatteranno le porte, ci diranno sei il peggiore papà del mondo, non avrei mai voluto nascere da una mamma come te, eccetera, eccetera. Vedo che le teste ogni tanto fanno così, ok, stanno facendo il loro mestiere. D'altro canto, è molto importante che le mamme non si sentano rotte dentro da un figlio o da una figlia che ti dice non ti voglio, io non ti odio, perché le mamme arrivano e dicono sarà mica Erika e Omar, no. Molto probabilmente, se aspettiamo 2 ore, può essere che la mattina dopo si svegliano e stanno fischiettando. A casa mia tante volte è proprio un po' così, per un'ora c'è lo tsunami, dopodiché si esce e tutto più o meno riparte nel loro modo di funzionare. Dopo un'ora effettivamente l'onda dell'emozione che si è iperattivata si è esaurita, mentre tante volte magari non ce la facciamo noi, no? Ci sentiamo così aggrediti, così distrutti da un figlio che non ci vuole più bene. Non è vero che non ci vuole più bene, è semplicemente entrato in una zona di iperattivazione emotiva. E alla fine sentire quella cosa lì, che c'è un adulto che sta tranquillo sul ring e che fa un po' il suo mestiere d'adulto, sotto sotto gli fa bene e gli piace anche. Vorrei adesso, abbiamo oggettivamente parlato molto del contenitore, no? Del fatto che hanno in mano degli strumenti che sono... nella mia prospettiva professionale un po' dissociativi, cioè non tengono integrata la parte emotiva e la parte cognitiva, tendono a tenere fortemente attivata la parte emotiva e quindi a sconnettere completamente la parte cognitiva. Questo è un problema tra gli 11 e i 14 anni, perché gran parte del lavoro che dobbiamo fare è costantemente costruire significati cognitivi sulle cose che andranno a fare nelle loro esplorazioni delle relazioni della vita e del mondo. E il secondo aspetto è che se noi vogliamo salvarli dai rischi, in moltissimi casi loro tenderanno costantemente a entrare in una zona di emozione, di eccitazione, e noi tenderemo con la nostra parte più frontale, più cognitiva, a bloccare quelle esplorazioni che ci sembrano troppo pericolose. Domani è Halloween e io vi consiglio, se avete figli di 12-14 anni che vi dicono vado alla festa del mio compagno e vedremo un film horror, di capire bene di che film horror stiamo parlando, perché chi fa il mio mestiere poi intorno al 30 novembre, un mese dopo, ha almeno una mamma che arriva disperata perché il suo 13-14enne ha visto un film così horror, ma così horror, ma così horror, che dottore non riesce più ad addormentarsi se io non gli vado nel letto a tenergli la mano tutte le sere. E a 13 anni non è una gran evoluzione, non è una grande crescita per addormentarti dover avere la mamma che ti tiene la mano. Il che mi sta dicendo quella mamma, che quel film era troppa roba per lui, ma lui non lo sapeva, e quindi è meglio che lo sappiano gli adulti. Quando mio figlio ha fatto quella richiesta, gli ho detto ma il film cos'era? Era Saw 2, un film che io ignoro. Ho guardato il trailer e gli ho detto guarda, io già solo a guardare il trailer non ho capelli ma li avrei persi tutti. Tu sei pronto per fare un'esperienza del genere? Perché? La domanda era perché? Perché ci sono asce, perché ci sono squartamenti, perché escono le budella. Tu sei pronto a vederti 90 minuti di questa roba qua? Perché sempre per la sfortuna che hai di avere un papà che fa lo psicoterapeuta, io ti dico che forse per te è troppa roba, in questo momento, se hai 12 anni e fai la seconda media, è troppa roba. E alla fine non c'è andato, ma la mia domanda è, io ho rovinato il divertimento di Halloween, non lo sto facendo crescere, o io ho usato un pensiero adulto, intelligente, ho detto con calma, su questa roba qua magari andiamo un po' più lenti. Per cui proverei adesso a farvi vedere un video che è centrato proprio sui contenuti invece che hanno a che fare con la sessualità. Nella vita dei giovanissimi, la rincorsa verso una sessualità facile, immediata e di pronto consumo è stata favorita e accelerata dalle nuove tecnologie. Quanti si sentirebbero tranquilli se a 11 anni un figlio vagasse di notte da solo in una grande città? Probabilmente nessuno. Eppure permettiamo ai ragazzi di aggirarsi in libertà nel web, senza limiti né regole, a qualsiasi ora del giorno e della notte. È necessario che i più giovani abbiano genitori ed educatori consapevoli, che non ignorano, che non fingono di non sapere. Ho scelto il liceo classico. Tutti erano molto interessati a farsi vedere dagli altri, a essere invitati alle feste, a fare gruppo. A me sarebbe piaciuto essere tra i popolari, quelli che avevano sempre un impegno nel fine settimana, un amico con cui uscire. Ma al di fuori delle mie due amiche del cuore io non avevo nessuno. Mi sentivo diversa da tutti gli altri. Ero un soprammobile nella vita degli altri. Una mattina ho sentito che non ce la facevo più, dovevo cambiare copione. E allora ho deciso. Per essere popolare dovevo mostrarmi sexy e disponibile con i ragazzi della mia scuola. Solo così avrei fatto il grande salto. Sarei entrata anch'io nel club di quelle normali. Mi sono trasformata. Ammiccavo, davo corda a tutti. Con qualcuno mi sono spinta anche più in là. A scuola i ragazzi hanno cominciato a parlare di me come di una facile. Mi sono cominciati ad arrivare inviti da persone che non mi avevano mai rivolto la parola. Però ho iniziato anche a sentirmi confusa. E una mattina è successo tutto all'improvviso. Ho avuto una sensazione terribile, non respiravo più, il cuore mi batteva fortissimo. Ho fatto chiamare mia madre. Gli ho detto, portami all'ospedale subito, sto per morire. Al pronto soccorso hanno fatto tutti gli accertamenti. Il medico di turno mi ha liquidata dicendo, sua figlia ha avuto un attacco di panico. Non c'è dubbio, le nostre figlie imparano fin da piccole che mostrarsi sexy e ammiccanti è la chiave per garantirsi un futuro in tutti i campi. Se le bambine sono spinte verso una sessualizzazione e un'erotizzazione sempre più precoci, ai nostri figli maschi viene proposta sempre prima, in modo sempre più intenso, un'enorme offerta di pornografia. Ho 11 anni, sono sempre stato un campione in tutto, anche in salute. Fino a quando, in prima media, una mattina ho detto alla mia professoressa di matematica che dovevo andare a casa per colpa di un terribile mal di testa. La mamma mi ha portato dal pediatra, sarà lo sviluppo, ha detto lui, tranquillizzandola. Nelle settimane successive, per altre 5 volte la mamma ha dovuto portarmi a casa da scuola. Mi scoppiava la testa. Così sono finito da uno psicologo. La prima volta lui mi ha chiesto così, di getto, cosa c'è di così grosso e così pesante in quella testa che cerca di uscire, di venire fuori? Allora gli ho raccontato delle mie navigazioni in internet e di tutti i siti porno che ho cominciato a frequentare. La testa mi è rimasta là, dentro allo schermo. Quelle immagini non sono più riuscito a togliermele dalla mente. Andavo a dormire e loro erano lì, appena chiudevo gli occhi. Ero a scuola per fare il compito in classe di matematica e nella mente rivedevo le scene del pomeriggio precedente. Avrei tanto voluto smettere, ma poi, ogni pomeriggio a casa da solo, quella era la prima cosa che facevo. Molti genitori. Ok, ci fermiamo qua. E, in realtà, qua di questa un po', ma anche del lavoro che ho fatto su sessualità e uso del web nei giovanissimi, il video per esempio presenta un tema per le ragazze e un tema per i ragazzi. Il tema per le ragazze è la sessualizzazione precoce e il fatto che oggettivamente molte delle nostre figlie, in particolare tra i 10 e i 14 anni, quando devono imparare un po' a pensare, che per loro è una fatica, qual è quel lavoro su se stesse che cercano di fare nel tentativo di acquisire un valore, acquisire uno status all'interno del gruppo, molte di loro entrano in questa zona, cioè di investire un bel po' sulla loro seduttività e sulla sessualizzazione della loro immagine. Questa ragazza aveva proprio questo come tema, che è stato interessante anche nel lavoro terapeutico provare a vedere con lei come aveva imparato, nel momento in cui lei si pone una domanda molto valida: io non posso più essere fuori dal gruppo, voglio entrare dentro. La domanda cruciale con lei: ma come hai imparato? Dove hai imparato? Chi te l'ha insegnato? Che per entrare dentro la mossa più veloce è quella di puntare un sacco sulla sessualizzazione della tua immagine e dei tuoi comportamenti. Allora, in realtà io vorrei un po' farvi vedere adesso delle cose concrete, perché questa è davvero un po' la sfida che abbiamo noi come genitori in questo momento. Arrivano un sacco di messaggi alle nostre figlie che sostengono davvero tanto, no? Questa cosa di, per avere valore, punta un bel po' sull'aspetto sessuale. Vi vorrei far vedere un video che alle nostre figlie non dice niente, però magari per noi è molto riconoscibile, perché il personaggio è Britney Spears, a loro è sconosciuto, a molti di noi è conosciuto. Lei è diventata famosa come personaggio Disney quando era in preadolescenza, 12-13 anni, e abbiamo fatto un videomontaggio molto breve dove vi facciamo vedere quattro salti evolutivi nella sua carriera che corrispondono al passaggio dai 12 ai 18 anni. Cioè, che cosa è successo alla sua immagine pubblica, per lei che è stata un'icona globale per le ragazze, e su che cosa hanno puntato poi alla fine chi costruiva l'immagine di Britney Spears. Su cosa ha spinto forte l'acceleratore? Ecco, qua è come lei comincia, e questo è dentro a casa Disney. Lei è una ragazzina molto acqua e sapone che canta e balla. Quindi lei diventa famosa in questa versione. Qua è alle scuole medie. Il primo salto che vediamo fare è quando lei entra alle scuole superiori, quindi 14-15 anni. Voi vedrete il prossimo video, che è ambientato in una scuola superiore. Eccolo qua. E qua vedete che le cose sono cominciate a cambiare. Il prossimo video che vedete, lei è ancora minorenne, ma vedrete che fa un ulteriore salto di qualità nella sessualizzazione della sua immagine. Ok, e l'ultimo video che vedete, lei è diventata maggiorenne, per cui ce la fanno anche vedere un po' nel mondo del lavoro. La domanda che dovremmo farci è: che mestiere fa? Ok, adesso proviamo a entrare invece nel mondo delle nostre figlie e vi faccio vedere un po' un equivalente che invece ha fatto un bel po' di scalpore negli ultimi 3-4 anni, perché questa è Hannah Montana, lei di nuovo nasce come un personaggio della Disney, E questa è la sua versione che la rende famosa in tutto il mondo. È un'icona globale, sempre seguita dalle giovanissime. Acqua e sapone, romanticissima, con un fidanzato che tutte le mamme vorrebbero, che va molto molto bene. E infatti va tutto così bene che adesso vedete il papà che dice sì sì, sono d'accordo. Eccolo qua, molto bene. Ci possiamo... Questo è come lei entra nella vita delle ragazze in tutto il mondo e effettivamente le vogliono bene, cioè si appassionano a lei. Lei fa un solo salto rispetto a Britney Spears. Lei, quando finisce Hannah Montana, diventa la vera se stessa, quindi si racconta dentro i giornali come Hannah Montana era un personaggio, la vera me stessa si chiama Miley Cyrus, sono io, ed è questa cosa qua. Slowly turn you, let me burn now. Ashes on the ground. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can't ever lie, running for my life. I will always want you. I came in like a rainbow. Vi basta? Abbiamo visto, è un, non è un salto, è un saltone. E la cosa che dovremmo domandare, lei è oggettivamente, no, molto brava, canta bene, balla bene, ma noi non, quasi non ci accorgiamo più di tutto quello che lei sa fare, e quello che esce potentissimo in questo che diventa un video proprio virale, ha 10 volte di più visualizzazioni del video più visto della serie Hannah Montana. E è chiaro, no, che tu, su questo video noi ci accorgiamo che tutto il lavoro viene fatto nella prospettiva di sessualizzare tantissimo la sua immagine. Lei nelle interviste racconterà, inutile raccontarcela, quella era una montatura. Questa è la vera me stessa. Le nostre figlie, quando vedono questa evoluzione, di nuovo, sono delle supereroine e dicono mamma mia com'è caduta in basso la Miley, o è molto probabile, no, che tra i 12 e i 15 anni, con il loro cervello e entrando in questa roba qua, dicono ammappate, cioè ha fatto un bel salto, e saranno lì incerte, perché poi impacchettato così, questa è una cosa che in realtà alla fine a loro è piaciuto tanto, e spinge forte in realtà sull'acceleratore della sessualità. A noi ci verrebbe da fare una predica, ma guarda te, cos'è diventata, ma dimmi un po' se sei... Il mio consiglio è che invece noi dobbiamo oggettivamente, il concetto non è censurare, perché una roba così arriva da tutte le parti. Qual è la conversazione che fa bene a un figlio o a una figlia di fronte a un video così? Se io fossi una mamma direi... Però che evoluzione, da Hannah Montana a Miley, sai, quasi rimango, ti vedo con quegli occhi lì, affascinati, sedotti, incuriositi, dico, sai che quasi quasi rimango anch'io affascinata e incuriosita come te, a tal punto che io domani mi prendo un giorno di ferie, vado nel cortile del nostro palazzo, mi faccio portare una palla da distruzione, da demolizione, la cavalco tutta nuda e riproduco lo stesso effetto per i nostri vicini di casa, perché in fin dei conti, se quella roba lì ci fa dire vale la pena, perché io no, come mamma. E poi, visto che il papà invece lui non prende le ferie e va a lavorare, quando torna a casa con un bel martello in mano, io lo accolgo leccando il martello di fronte al papà nello stesso modo in cui fa mai. Allora, a noi ci viene da ridere, ci viene da ridere, perché quella roba lì è lontana anni luce dal principio di realtà. E nel momento in cui non c'è nessuna narrazione parallela, questa roba qua diventa un principio di realtà. Cioè la pornizzazione proprio di immagini che diventano pubbliche, caricate di valore e di fascino, legate al fatto che ci fanno vedere quello che si vede, ma tutto quello che non si vede non ce lo racconta nessuno. Dobbiamo imparare un po' a raccontarlo noi. Io direi, lavorando con le ragazze, si può proprio dire, ma a noi ci sembra così incredibile, no, questa evoluzione. Ma se domani la vostra migliore amica si presenta nel cortile della scuola tutta nuda, cavalcando una palla da demolizione, e i compagni la guardano dalle finestre e devono decidere quali sono i tre aggettivi con cui la raccontano. Quei tre aggettivi a lei che sta facendo quella roba le piacciono? A te che sei la sua migliore amica, ti fanno sentire a tuo agio quando sei al suo fianco? O se lei entrasse, no, in classe con un martello e lo leccasse di fronte ai suoi compagni, nel modo in cui fa lei dentro al video, ma i tuoi compagni che cosa, come la trattano? Che cosa le dicono? Perché forse questa roba qua è proprio una rendere una prostituta una ragazza di 18 anni. E presentare quella roba lì come una cosa attraente. Forse nella vita reale non è così attraente, e le vere emozioni che provi dentro a una messa in scena di quel tipo lì sono molto lontane dall'apparenza glamour che ti dà un video. Se noi scendiamo di là, questo è proprio un modo molto pervasivo che è entrato nella vita delle ragazze, ma anche delle bambine, perché se io penso a mia figlia Caterina che ha 7 anni, provo a farvi vedere un video che è una sigla di un cartone animato, e il cartone è quello delle Bratz. Quattro ragazze alla moda, super ok. All'invidia e la rabbia ti risponde. Allora, sono magiche le Bratz. Allora, noi abbiamo visto tanta roba dentro a sto video, ma al di là di quello che abbiamo visto, io vorrei adesso farvi stare un po' su quello che abbiamo sentito. Perché in 1:20, per esempio, ci sono anche queste frasi. Bratz con noi forever, corpi da modelle, trucco da star, elegante, sexy, glamour, colors and punk, vivi Bratz. Allora, per la Caterina, che 5 volte ascolta sta sigletta e la può cantare, la può ballare, avere in bocca sta roba, tutte queste parole, per me è tanta roba. È già tanta roba per l'Alice che ne ha 12, ma per la Caterina che ne ha 7, che è un target ideale per questo genere di prodotto, per me è tanta roba. Per cui un'operazione che ho fatto io è stato: scusami Kate, ma punk, stai cantando punk? Cos'è punk? Piccola panchina. Ho detto no, no Kate, non va mica bene. Secondo me no, però facciamo così, andiamo su Google Immagini, scriviamo punk e guardiamo che immagini ci vengono fuori. Allora lei dice, ma papà, ma come sono brutti. Ok, questo è punk, quindi sai che cosa stai, quella parola lì che la canti è questa cosa qua. Quindi quando dici trucco da star, elegante, sexy, glamour, colors and punk, tu dici punk mi piace. C'è un'altra parola qua che è tanta roba, quindi è sexy, e io decido di fare lo stesso esercizio, ma Caterina sexy è... Va bene, facciamo uguale. Quindi sexy dentro Google Immagini, mi prendo proprio una responsabilità educativa. Apriamo le immagini e lei mi dice, papà, ma sono tutte nude, c'hanno fuori il seno nudo. E ho detto, ecco, sexy, probabilmente questa cosa qua. Allora, quando lei ricanta, improvvisamente fa trucco da star, eleganti, la la, glamour, color, la la. Ok? Questo è un buon intervento educativo, secondo me. Cioè, questo, in quel momento, le permette di non entrare in un copione che oggettivamente lei non ha scelto, e dandole una chiave d'accesso ai significati, lei non sceglierebbe, altrimenti non farebbe la la su questa cosa qua. Questo secondo me è proprio un aspetto importante. Queste sono le baby brats, e come vedete è un po', questi sarebbero i neonati, no? E è un po' tutto abbinato. Se guardate, questo è un servizio di Vogue Francia, e l'idea è questa, della direttrice è stata questa: per pubblicizzare prodotti da regalare a Natale nel mondo degli adulti, io li faccio indossare a delle bambine. E questo però non è un gioco, questo è adultizzare. Tanti di noi, una mattina dobbiamo andare a scuola e la Kate è agitata, manca qualcosa. Che cosa manca, Caterina? Il reggiseno, dice lei, era in prima elementare. E allora lì le dico: oh porca miseria, Caterina, ma io non mi sono, ma ti si sono gonfiati i sedi durante la notte che io non me ne sono accorto? E lei dice: no. E allora ho detto: scusami, ma il reggiseno serve alla mamma, lei i seni ce li ha, tu c'hai i seni o sei piatta? Piatta, papà. Allora a te non serve un reggiseno. Se ti serve qualcosa, ti serve un regginiente. Allora, lei mi dà la chiave d'accesso all'argomento perché mi dice: ma la Greta ce l'ha. Allora io le rispondo: ah beh, guarda, allora io ti accompagno a scuola, poi la prima cosa che faccio è una telefonata alla mamma della Greta e le chiedo che cosa caspita le è successo in questi giorni, che le si sono gonfiati i seni e ha bisogno un reggiseno. E allora lei mi risponde: no papà, piatta anche la Greta. Allora io concludo con la Kate e dico: beh, allora tu le devi dire alla Greta che lei non ha un reggiseno, anche lei ha un regginiente. Su questa cosa la Kate non dice più niente e andiamo a scuola, e lì effettivamente si esaurisce un po' tutto il discorso sul reggiseno. Parlando con tanti genitori, voi vi accorgete che noi tante volte, molto probabilmente, siamo tentati di dire: ma sì, ma cosa vuoi che sia mai un reggiseno a 6 anni? Che non è niente, no, da una parte, però dall'altra è proprio mettere dentro una cosa che è fuori fase. Ma è un po' come farli giocare alla mamma grande. Per farli giocare alla mamma grande devono entrare nella scarpona col tacone della mamma, nel reggiseno grande della mamma, devono prendersi il rossetto della mamma che poi la mamma grida. Quello è entrare nel gioco, faccio come se io sono la mamma. Ma se noi riempiamo la vita delle nostre figlie con scarpe taglia 29 col tacchetto, reggiseno taglia 6 anni, io non so i compleanni, ma effettivamente i maschi sono più fortunati, ricevono regali più belli. Le femmine è un mondo di rosa, di trucco, make-up, di tutta quella cosa lì, si fa fatica a vedere arrivare un libro, un DVD, un CD dello Zecchino, che io sono un appassionato, cioè non arriva quasi più questa roba qua. E se ci pensate, probabilmente questo è proprio non un farli giocare come se fossero i grandi, ma portare il mondo dei grandi molto presto dentro al mondo dei bambini. E su questo non è che l'hanno scelto loro, abbiamo perso un po' il controllo noi adulti. Questa è una linea di abbigliamento intimo per bambine. Questo ve lo vorrei far vedere, lo trovate in internet, è un gioco della lap dance per bambine, col DVD, il palo, la giarrettiera. La cosa che ha colpito me, ci sono i soldi da mettere dentro alle mutande. Questa è la marca preferita, se avete delle figlie, probabilmente tra i 12 e i 15 anni moriranno dalla voglia di avere la roba di Abercrombie. E allo stesso tempo però voi vedete che Abercrombie vende push-up e perizoma disponibili a partire dalla, dall'età, dalla taglia, 7 anni. Ecco, concludo, stasera noi quando ci vediamo ste robe ci diciamo: oh porca miseria, ma pensa a te. Ma queste cose sono proprio operative, sono nel flusso di molte delle esperienze che le nostre figlie vivono. Ecco, secondo me aggiungere un po' di quelle conversazioni, stile quella che vi ho fatto vedere con la Caterina, a loro serve tanto. Cioè avere un codice adulto, non che fa le prediche, ma che mette dentro delle domande che fanno vedere quanto poco fase specifica è tanta della roba che entra nella loro vita. Molto velocemente, perché è tardi, volevo invece parlare anche dei maschi col tema della pornografia. La pornografia, in realtà, nella mia percezione di papà, di maschio, di uomo, di psicoterapeuta, è davvero un po' epidemica ed è sempre più precoce nella vita dei maschi. Io, in generale, adesso più o meno con tutti i miei pazienti adolescenti, quando abbiamo conquistato una buona relazione, una seduta la dedico sempre un po' al tema, perché ci sono dentro tanto e tanti. Ritornando alla storia che avete visto nel filmato, quello era un ragazzino di seconda media, no, di prima media, 11 anni, che in realtà comincia ad avere questi mal di testa fortissimi e la mamma lo deve prendere e portare a casa perché lui non riesce a stare a scuola. La mamma non è abituata a lui che sta male, perché lui era veramente sano, proprio quei bambini torelli che vedete, tanto che la mamma lo chiama il mio patatone. Il patatone era nel mondo di YouPorn e lo ha imparato attraverso lo smartphone di un compagno. Lui ha raccontato bene, allora la prima cosa che fa è questa: quando arriva e dice un terribile mal di testa, la domanda che fa fare la svolta nel lavoro con lui è proprio questo: fammi vedere bene come hai fatto il tuo mal di testa. Allora lui chiude gli occhi e poi con le mani spinge, si vede proprio che spinge in giù. Quindi la domanda diventa: ma cosa c'è dentro quella testa che spinge così forte per uscire fuori? E quindi lui racconta che lui ha visto un bel po', continua a vedere film pornografici al pomeriggio a casa da solo, spiega che l'ha imparato dall'amico attraverso lo smartphone e a me quindi dà la possibilità di dire: beh, allora mi è tutto chiaro, perché è come avere un elefante dentro la 500, non ci sta. Quindi io posso intanto cominciare a fare un po' proprio di quella che si chiama psicoeducazione, cioè dirgli: se tu hai 11 anni, la sessualità deve essere proprio una cosa che cominci a fantasticare, a pensare, a considerare, a vedere, che ti eccita. Ma se tu hai 11 anni, il tuo cassettino per la sessualità è grosso così nella tua mente, proprio hai una roba grossa così, e se tu ci metti dentro YouPorn, che è grosso così, a volte neanche gli adulti lo reggono, ecco perché hai quel mal di testa lì, non ci sta dentro il tuo cassettino, troppa roba, troppa intensa, troppo intensa. Quindi noi dobbiamo proprio adesso dire alla mamma quello che è successo, e ci deve pensare la mamma a mettere un confine, perché lui dice: io tutti i giorni mi dicevo, oggi basta, poi tornavo a casa da scuola e quella era la prima cosa che facevo. E a me sta proprio raccontando bene il funzionamento del suo cervello da preadolescente. Il suo cervello ha voglia di essere eccitato e lo conduce costantemente lì. Lui col cervello C prova anche a dirsi: adesso basta, ma non ce la fa. Lui da solo non ce la fa, e in realtà quella sensazione di eccitazione gli piace molto. C'è però una parte che lui non ha considerato, perché quando a me dice: Alberto, io però ho un problema, alla sera quando cerco di addormentarmi chiudo gli occhi e il film ricomincia a girare. Io continuo a vedere il film. A scuola mi concentro sul compito in classe e il film del giorno prima riparte. Ecco, quando lui mi dice queste robe qua, mi sta raccontando quelle che io nel mio mestiere chiamo immagini intrusive, che sono tipiche della sindrome post-traumatica da stress, cioè quelli sono segnali di traumatizzazione. È entrata roba troppo intensa per la sua capacità di saperla gestire. Quindi questo sarà parte del lavoro clinico, dovremo proprio desensibilizzare l'iperattivazione che il suo cervello non riesce a smaltire e quindi continua a riproporla. È tipica, se noi facciamo un incidente, dopo 3 mesi magari siamo al volante e ci riarriva esattamente la sensazione di quel momento in cui abbiamo fatto l'incidente. Il nostro cervello non ha smaltito una emozionalità troppo intensa. A parte la traumatizzazione, la cosa che io vedo succedere a tanti ragazzini che guardano pornografia è che rimangono molto turbati. Il 90-95% dei nostri figli maschi entra nella pornografia senza che nessun adulto abbia mai fatto con loro educazione sessuale. Quindi tutto quello che loro imparano della sessualità in molti casi è quello che esce dalla pornografia ed è un modo di avvicinarsi alla sessualità molto eccitante, ma spesso per loro anche molto confusivo e disorientante. Provo a darvi un'idea di pensieri che li turbano: ma la mia mamma e il mio papà lo fanno in quel modo lì? Fanno quelle robe lì? Ecco, pensare alla mamma e al papà che fanno le cose che fa una pornostar per un figlio è una cosa che turba. Poi, siccome io non l'ho ancora fatto, ma quando io lo dovrò fare? Dovrò farlo in quel modo lì? Perché quel modo lì spesso è molto violento, molto intenso, e la sessualità che c'è nella pornografia è lontana anni luce dalla sessualità di molte persone nella vita reale. Per cui, per esempio, per me e mio figlio è stato molto utile fare una conversazione del genere: caro mio Jacopo, guarda che anch'io ogni giorno quando mi sveglio devo decidere di essere un uomo porn free, libero dalla pornografia, perché se io entro nel film pornografico io provo esattamente la stessa eccitazione che provi tu. La pornografia è fatta per eccitarci e se io la vedo mi eccito come ti ecciti tu. Però la cosa che scopro poi è che mi sto eccitando con una sessualità che è molto differente da quella che per esempio connota la mia storia di vita o la storia della coppia che ho fatto con la tua mamma. Per esempio nei pornofilm le donne o non pensano ad altro, sono delle ninfomani, o pensano ad altro, stanno facendo guarda caso la cameriera, la segretaria, l'infermiera. Poi arriva un uomo che dice: c'ho voglia. Lei dice: ma io sto lavorando. E beh, ma io c'ho voglia, e lo fanno. Ecco, tua mamma non ha né il copione A né il copione B e hai buone probabilità che nella vita le donne che incontrerai non hanno né il copione A né il copione B, sono proprio un po' più complesse, un po' più sofisticate, un po' più raffinate nel modo di entrare in relazione, in intimità con la persona con cui decidono, perché poi abbiamo la scelta, possiamo fare sesso o fare l'amore. Può proprio essere che le persone che poi diventano importanti nella tua vita hanno più voglia di fare l'amore che di fare sesso. E un altro aspetto che secondo me per loro è molto importante è che si stanno interrogando se hanno 12 o 13 anni, se il loro sviluppo e il loro corpo è adeguato. 20 anni fa usavamo il righello. Se loro usano il porno film e il porno attore, molti di loro si sentiranno parecchio inadeguati, no? Parecchio in difficoltà, parecchio in ansia. E poi credo che sia molto importante dirgli che quando questa cosa diventerà realtà per te, forse non saranno tutti quei fuochi d'artificio che vedi in un porno film, perché costruire intimità, costruire vicinanza, entrare proprio in relazione profonda con una persona comporta anche imbarazzo, comporta scoprirsi piano, comporta tutta una serie di passaggi, sequenze, emozioni che il film pornografico non ti ha fatto vedere. Quindi è molto tardi e mi scuso perché sono andato oltre. Concludo dicendo che i miei messaggi da portarci a casa stasera sono proprio un po' questi: non possiamo lasciare i nostri figli orfani nella loro vita online, non possiamo lasciare i nostri figli senza un'adeguata educazione sessuale, soprattutto in questo momento in cui la sessualità ipereccitata è molto pornografica, li raggiunge da tutte le parti, e come genitori è bene che abbiamo un progetto educativo intorno a queste due aree, che erano quelle che incrociavo stasera, che sono la sessualità e le tecnologie, perché impattano in modo molto potente la loro vita e spesso sono aree su cui noi non abbiamo fatto neanche un'ora di discussione di coppia dentro al mondo di noi genitori, dentro al mondo di mamma e papà. Se ci pensate, per andare in vacanza a volte stiamo ore a consultare cataloghi, a vedere TripAdvisor, a fare un sacco di confronti, e una vacanza dura una settimana nella vita. La sessualità dura tutta la vita e ha bisogno proprio di una buona partenza, di un intervento, di un progetto educativo forte di mamma e papà. Un po' anche per sorridere, chiudiamo con questa conversazione tra me e mio figlio, in un libro per maschi dove, anche qua il paradosso, un intero capitolo è proprio dedicato alla pornografia, perché ci sono tanti libri per le ragazze, pochissimi libri per i maschi, io personalmente non ne ho trovati due, e in nessun libro si parla di pornografia in modo educativo, in modo formativo, che mi accorgo è proprio una roba che ai figli serve tanto. Alcuni professori in terza media decidono che questo libro può essere un buon libro, no, allora è un libro che parla di 10 temi diversi, di cui uno ha a che fare con la sessualità e della pornografia, e quindi dicono no, questo in terza media effettivamente è proprio una cosa che leggiamo, maschi, femmine, c'è dentro proprio il maschile e il femminile. Non sia mai, questa è una roba troppo pericolosa, è entrato un po' in tutto quel dibattito sul gender, e quindi nessuno mai parli a un tredicenne di pornografia, quindi il libro l'abbiamo rimesso nel cassetto, ma loro tablet e cellulari non li hanno rimessi nel cassetto, quindi va bene che nessuno lo legga a scuola, ma i papà, che sono tanti stasera presenti, imparino a trovare un modo per parlarne con i loro figli, perché è davvero importante. Questa è una conversazione. Papà, come hai fatto a innamorarti della mamma? Non te lo so spiegare bene, l'ho vista e per me è stato proprio un colpo di fulmine, ho capito che lei era quella giusta. Anche lei l'ha capito subito che tu eri quello giusto? No, direi di no. Infatti non ne voleva sapere. Beh, allora la tua era pura attrazione fisica. Beh, non direi, di lei mi piaceva tutto. Ma perché ti piaceva così tanto? Non te lo so dire, certe cose le senti ma non le sai spiegare. C'era qualcosa nella mamma che ti attizzava un sacco. Cosa intendi dire con attizzava? Che ti prendeva particolarmente, che ti piaceva davvero tanto. Beh, sì, credo che fossero gli occhi. Papà, mi dici così perché non vuoi dirmi la verità? Perché? Quale dovrebbe essere la verità? Di solito nella mia classe, quando uno gli piace una è perché ha delle belle tette. Diciamo che questo non si può proprio dire, la mamma arriva malapena alla seconda. Beh, allora ti sarà piaciuto il suo sedere. Credimi, la guardavo negli occhi e tutto il resto passava in secondo piano. Non ho scelto tua mamma per il suo sedere. Sei un bugiardo, papà. Perché dici questo? Perché se una tipa ti prende, i motivi sono due di solito. O ha un bel seno, oppure ha un bel sedere. E se invece fossero proprio gli occhi il segreto di tutto? Secondo te è impossibile che uno si innamori per via degli occhi? Sì, però credo che gli occhi arrivino per terzi. Prima il seno, poi il sedere, infine medaglia di bronzo, gli occhi. Ma secondo te, se chiamo qui tua mamma e le riassumo questa conversazione, lei che cosa dice? No papà, la mamma non dirle niente, poi magari le viene il complesso che ha il seno piccolo. Meglio lasciarla stare. Grazie, ma direi che non te la cavi solo così con la storiella finale, perché prima un po' di ansia, almeno credo che ce l'abbia un po' messa, direi che abbiamo mezz'ora per vivere un momento di confronto, cioè domande o osservazioni che possiamo fare con questo microfono. Mentre pensate alle domande o agli interventi, Abbiamo pensato di usare questo metodo qua. Entrando vi abbiamo fatto un bellissimo regalo, li abbiamo fatto, vero? Che è una busta bianca, era un regalo fittizio, vi chiediamo di restituire. Il motivo è molto semplice, lo dico in pace, però anche in verità. Queste scuole di genitori, questi percorsi che l'AGE organizza, richiedono anche uno sforzo economico non indifferente, che fino adesso siamo riusciti a fare attraverso anche dei progetti, una banca, una fondazione, qualcuno. Quest'anno siamo stati un pochino più in difficoltà ed è uno dei motivi per cui anche ci si è messo in mezzo l'ufficio famiglia. Se riusciamo a dividere in tre le spese di queste due serate, di questo percorso, cioè la terza parte abbiamo capito che siamo noi. Quindi nella libertà, se qualcuno vuole anche tenersi la busta, che bella, che può servire per fare il bigliettino, ma mette anche senza busta, qua dentro va benissimo. Partiamo qua da questa bellissima coppia. La scatola intanto gira, magari là in fondo fate attenzione poi che ritorni qua davanti e poi Sara recupera la o Cristina, che va bene. Il microfono, credo Sara arrivi anche fino in fondo, per cui possiamo dare libero sfogo alle domande e agli interventi che possono vertere un po' su tutto quello che pensate. Ecco qua, magari diciamo il nome, così se ti serve, va bene se ne raccogliamo qualcuna o preferisci? Ma facciamo una per volta. Una poi... per volta, va bene. Sono Luisa, volevo innanzitutto fare complimenti perché con quattro figli riesce a trovare il tempo di fermarsi ogni tanto a parlare di queste cose con ciascuno, perché io ho quattro figli e non ce la faccio. E la seconda cosa è come costruire un canale di comunicazione su questi temi con i nostri figli, con insomma qualche indicazione anche pratica per riuscire a entrare nel tema, che è abbastanza complesso, imbarazzante anche per noi. Mm-hmm. Sì, credo che questa sia una fatica che un po' facciamo tutti. Io credo che paghiamo lo scotto anche del fatto che la gran parte di noi è figlia di genitori che non hanno mai fatto con noi educazione sessuale, non abbiamo dentro una memoria relativa al come si fa e al cosa ci ha fatto bene. Abbiamo spesso dentro di noi una memoria relativa a facce ultra allarmate, ultra arrabbiate o ultra spaventate, le mamme che saltavano sul telecomando e cambiavano canale se arrivava qualcosa di sessualmente esplicito con quella faccia spaventata che dice questo non va bene per te. È chiaro che fare quelle facce spaventate poi spaventa anche un figlio. La gran parte di noi a 12-13 anni aveva tante domande dentro di sé, ma probabilmente non ne abbiamo fatta neanche una mamma e papà, perché avevamo imparato che loro o si spaventano o non hanno voglia. Ecco, quindi la prima cosa che direi è: quando i figli entrano in quel territorio, magari un po' ci provocano, ci sfidano, a volte fanno anche delle domande molto molto concrete, terra terra, stiamo tranquilli. Se ci sembrano domandoni possiamo dire: oh là là, ma questa è una domanda da $1,000,000, devo pensarci su, ci penso, ti rispondo domani. In casa nostra è stato molto utile anche proprio andare in biblioteca e avere ogni tanto prendere dei libri che parlavano di come nascono i bambini, cosa sono le differenze tra il corpo dei maschi e il corpo delle femmine. Dovessi dare un po' una sequenza, prima dei 6 anni, più o meno tutti i bambini prima o poi ci faranno la domanda come siamo nati, e in generale noi siamo molto bravi a dire come escono, ma quasi nessuno riesce a spiegare bene come si entra. Ed è importante, cioè, sentire che è una cosa che possiamo fare e che non è così terribile. Tra i 6 e i 9 anni, le differenze fra maschi e femmine, trovare un buon libro su io sono un bambino, io sono una bambina, a loro serve molto, e leggerlo con loro significa proprio far vedere un adulto che non ha paura delle parole. A casa nostra poi una cosa che abbiamo deciso di fare, che ha funzionato bene al momento perché l'abbiamo fatta con i primi due figli, e che nelle vacanze tra la quinta elementare e la prima media abbiamo preso un libro proprio per ragazzi dedicato ai temi dello sviluppo della sessualità, e ogni sera al mare abbiamo letto un capitolo, quindi erano 10 capitoli, un capitolo a sera, e la regola era che ogni sera arrivavano con una domanda che veniva segnata su un foglio e poi leggevamo un capitolo del libro, punto, nient'altro, era pura lettura. Alla fine di tutto il libro riprendevamo in mano tutte le 10 domande che avevano portato e verificavamo se avevamo trovato in quel libro tutte le risposte. Se non c'erano tutte le risposte, ce le dovevamo andare a cercare in qualche altro modo. E per me è stato interessante, per esempio, chiedere a Jacopo, quando gli ho detto: ma tu avresti preferito che questo libro qua lo facevi, che ne so, con un esperto a scuola, oppure ti è piaciuto di più farlo così in vacanza al mare col tuo papà? E lui ha risposto: no, no, meglio con te papà, perché io con te non ho vergogna. E io ho ripensato a me bambino, che ero pieno di domande, ma io oggettiva avevo un papà pediatra, non gliene ho fatta neanche una, perché avevo vergogna. Quindi dentro a quella risposta di Jacopo ho proprio sentito che era cambiato un codice da generazione a generazione. Ecco, secondo me questi sono modi molto molto semplici in cui, per darvi un'idea, avevamo preso un libro che si chiama Io sono un bambino, io sono una bambina, la copertina del maschio, io sono un bambino, giravate il libro, io sono una bambina, quando Jacopo aveva sette anni e mezzo. L'abbiamo messa sulla cassapanca del locale in cui facciamo tante cose, e un sabato mattina lui non lo guarda, e lo guarda l'Alice, e dice: papà, leggiamo questo libro questa mattina. E io dico: ok, va bene Alice, però devi decidere che parte vuoi. Vuoi la parte che spiega i maschi o la parte in cui spiega le femmine? Lei ci pensa su e dice: no, io le femmine so già come sono fatte, perché sono io. E quindi dice: no, no, leggimi la parte dei maschi. Per cui, mentre io leggo all'Alice, 5 anni e mezzo, il libro dalla parte Io sono un bambino, c'è lo Jacopo, 7 anni e mezzo, che proprio un po' come un gatto, no? Gattona, e si presenta lì durante la lettura senza dire niente. Finita la parte di Io sono un bambino, l'Alice dice: benissimo, basta, fine, se ne va. E lo Jacopo dice: no, non è giusto, adesso bisogna leggere anche l'altra parte. Per cui io ho girato il libro, ho letto l'altra parte, e quella era per lui, l'Alice non era in giro. Però per dirvi come avere lì una roba su una cassapanca, in automatico ha reso ultranaturale un passaggio che loro stessi hanno detto: vogliamo farlo con te. Allora, secondo me queste sono quelle modalità che forse la nostra mamma e il nostro papà non avevano dentro, perché nessuno gliele aveva insegnate. Non le abbiamo dentro nemmeno noi, perché non ci vengono automatiche, non sono nella nostra memoria, ma se proviamo a farle, per me il tempo della scuola dell'infanzia e della scuola elementare è proprio un tempo fertile, cioè un tempo in cui noi possiamo proprio far vedere ai nostri figli quella tranquillità rispetto a questi temi che le nostre mamme e i nostri papà non hanno avuto con noi. Io vado su un'età un po' più innalzata, e quindi sui 14 anni. Nostro figlio, cui abbiamo un ragazzo di 14, una ragazzina di 13 e una bimba di 3. Quindi quando, insomma, abbiamo iniziato ad aspettare la terza, era l'età buona per cui affrontare il discorso con loro. E mentre era più semplice per me da mamma affrontarlo con la figlia femmina, con il figlio maschio è stato un po' più difficile, ma in qualche modo l'abbiamo fatto. Adesso siamo in un'altra età, per cui tutto è più difficile, non si riesce più a parlare molto, soprattutto col maschio. Domanda, vado molto mi addentro proprio. Se si chiude in bagno col telefonino, pur avendo detto e messo come regola che non ci si chiude in bagno, che in bagno non si va col telefonino, io ovviamente l'avevo già sentita a Fossano, per cui sono andata a vedere dopo un po' di volte dove andavamo a finire, e ho trovato dei siti porno. E come affrontiamo l'argomento? Ok, direi che questa è una cosa che succede a gran parte dei nostri figli, ma in realtà anche a tanti papà. Partendo dal dato di fatto che ognuno deve poi alla fine decidere quali sono le cose che vuole anche comunicare, no, nella relazione educativa a un figlio. Io, dicendo a Jacopo, guarda che ogni mattina io devo fare la fatica di decidere che sono un uomo porn free, perché anche per me è faticoso, anche per me decidere che la mia eccitazione non la becco dentro la pornografia, ma se mi voglio eccitare devo trovare un modo per stare bene con tua mamma, per esempio, o mi farò delle mie fantasie, ma non mi chiudo in bagno con la pornografia. E credo che a un figlio di 13-15 anni noi siamo proprio anche autorizzati a dire, perché come genitore ho proprio la preoccupazione che se tu ti abitui ad eccitarti con una roba così intensa e così lontana dalla vita reale, quando poi dovrai eccitarti nella vita reale, è difficile che tu trovi una che è così pronta, disponibile, eccitante come vedi nei pornofilm, proprio perché non è che la vita è un pornofilm. E io, anche per il lavoro che faccio, dico, guarda, a me capita di vedere uomini di 30 anni che per avere un'erezione devono prendersi il Viagra, oppure capita spesso di incontrare coppie di 35-40 anni che non hanno più nessuna eccitazione dentro alla loro coppia, e per esempio lui sta dentro alla pornografia nella sua stanza e lei magari è dentro un social a trovarsi un amico immaginario con cui fa una conversazione intima. E credo che il problema sia molto legato al fatto che se tu ti abitui ad avere fantasie ed eccitazione con sempre stimoli esterni che ti entrano da fuori e vanno nei tuoi circuiti, ti bruci proprio la tua capacità di costruirti un tuo percorso, un tuo immaginario, una tua fantasia. Quindi, fatte queste premesse, ho ribadito, per me Jacopo questo è proprio il motivo per cui quando ti chiudi nel bagno dove ci si può chiudere, le tecnologie stanno fuori. Gli sto dando un messaggio chiaro che ho ben presente, che vorrà eccitarsi, entrerà nella masturbazione e tutto il resto, e gli dico però sconnetti il più possibile tutto quello dalla pornografia, perché effettivamente la pornografia ti mangia i circuiti dell'eccitazione. Una roba del genere la possono fare i papà, effettivamente molto meglio delle mamme, perché le mamme poi non sono così eccitate dalla pornografia. L'eccitazione nel femminile è molto differente, e mentre lo fanno i papà stanno proprio anche dando un buon modello di che cosa significa essere maschio e dover trovare una buona sintesi tra un'eccitazione che la pornografia ti dà subito e una sensualità e sessualità che è un po' da conquistare dentro alla relazione, che non è fatta solo di prendersi un pezzo di piacere e andar via, è fatta proprio di costruzione dell'intimità, perché alla fine noi in una coppia stiamo bene non quando facciamo sesso, ma quando facciamo l'amore. Fare sesso lo possiamo fare con chiunque, fare l'amore richiede proprio avere una relazione all'interno del quale costruire significati intorno a quello che di sessuale facciamo. Ecco, questo è per esempio il tema che c'è nel capitolo sulla pornografia. Secondo me è bene che i figli maschi sappiano questa roba, ed è anche bene che le ragazze sentano che questo è il modo di entrare in una sessualità di coppia, perché altrimenti rischiano di illudersi che se diventano un po' come le pornostar, poi vengono più facilmente scelte e volute. Per i figli maschi, posso leggere il titolo? È baciare e fare dire. Baciare e fare dire, credo ce ne siano poi quelli. È giusto anticipare ai figli, in questo caso, vabbè, ai figli maschi, il rischio, lo chiamo rischio, però la possibilità di entrare a contatto con questa, con questo mondo, cioè nel senso, dare per scontato che i nostri figli in questo momento siano assolutamente esentati, ma anticiparglielo. Mm-hmm. Cioè io credo che quando li vediamo che entrano nella zona dello sviluppo, è proprio importante che loro sentano che gli adulti di riferimento hanno fatto con loro un passaggio educativo sul tema della sessualità, E per esempio parlare anche del fatto avranno certamente amici che gli parleranno della pornografia, avranno certamente amici che cercheranno di portarli in quel territorio, e per quello che è la mia esperienza, a volte succede già in quarta e quinta elementare. Io mi sento di dire che i genitori che hanno lavorato bene con i loro figli ricevono in cambio che quando un figlio si accorge che il mondo fuori va a una velocità diversa, no, da quella che ha dentro casa, la prima persona a cui lo dice è mamma e papà, cioè tornano a casa e ti dicono, ma guarda che a scuola lui, lei ha fatto questo, e ci dà immediatamente un gancio per verificare con lui cosa ha provato, cosa ha sentito, cosa ha pensato, che cosa, se lui vuole, se ne è sentito attratto, si è sentito turbato, spaventato. Cioè, uno dei problemi grossi della pornografia è che se entra troppo presto, da una parte li eccita, ma dall'altra veramente li disorienta tanto, li confonde tanto. E io mi sento di dire anche che se noi genitori diamo aspettative chiare, io, la nostra famiglia, proprio perché ti ho raccontato tutte queste cose, io sono un uomo porn free, la nostra famiglia è libera dalla pornografia, tu potrai entrare in tutti i miei cellulari, in tutti i miei computer e non troverai mai sorprese in questo senso. Quindi questo è quello che io mi aspetto da te. Già solo dire questa cosa riduce enormemente, lo faranno, nasconderanno la cronologia eccetera, ma lo fanno molto, molto meno, e inoltre hanno proprio davanti un esempio coerente, che è quello del papà. Quindi dotarli di un po' di competenze, usare la mia esperienza di maschio, uomo e papà, provare a costruire significati. Perché facciamo queste scelte? Non perché vogliamo reprimere, ma proprio perché vogliamo sostenere. Credo che siano tutti passaggi importanti. Se noi non lo diciamo, questa roba non gliela dice nessuno, e tutti gli altri dicono tutto il resto. Abbiamo ancora 10 minuti, un paio di domande ci stanno. Nel frattempo, lo sapete perché chi ha portato i figli non sono entrati in sala, quindi funziona l'animazione. Questa sera è guidata dagli scout, che ringraziamo, nella sede proprio, ho appena detto bene, nella sede qui accanto, ma è solo perché va bene. E anche domani sera ci sarà l'animazione, quindi potete portare i ragazzi. Ancora una domanda? Se no porto il microfono a Alessia, dov'è? L'ho vista prima, si è nascosta. Una e due. Fratello e sorella in casa. Possono arrivare esperienze di ricerca tra di loro che arrivino come provocazione da uno o dall'altro? Ok, allora, di solito bambini e bambine fanno anche molti giochi esplorativi, proprio maschi si fanno il bagno insieme, eccetera. In generale, di nuovo, la cosa che conta sempre, se io mi accorgo di qualche cosa che non va bene, eccetera, è che io do delle regole chiarissime. Io, l'adulto, mette i confini, e a quel punto, quando l'adulto mette i confini e li spiega, li sostiene, quello che dovrebbe succedere è che loro si adattano, si adeguano, cioè quella cosa, spesso fanno anche molto caos, cose un po' disordinate, perché gli adulti non hanno mai dato chiara la cornice. Il messaggio in più che posso dare spesso è: e se qualcosa, se anche qualcuno, anche dentro la famiglia, il fratello o la sorella, vi invita o vi sollecita a fare cose che vi danno disagio, questa è una cosa che dovete subito dire alla mamma e al papà, perché la mamma e il papà fanno un intervento subito, quindi do immediatamente anche uno schema che io sono il riferimento. In molti casi rimangono magari eccitati e confusi e impauriti dall'andare a dire a mamma e papà, perché mi potrebbero potrebbero spaventarsi, potrebbero arrabbiarsi. No, io non mi arrabbio, io metto regole, io presidio un po' il territorio, no? Con codici, regole, confini chiari e condivisi. Io provo a fare una domanda, ma non so se riesco a farmi capire. Cioè, come fa una mamma ad affrontare il tema della sessualità, o comunque accompagnare nella sessualità il figlio maschio? E per la mamma effettivamente è più difficile, dovrebbe, anche se siamo separati, dovrebbe essere il più possibile una cosa che fa insieme al papà, o che rispetto ad alcuni passaggi fa fare al papà. Se il papà non c'è, io direi che la mamma prova comunque a fare tutte quelle, per esempio la lettura di un libro alla scuola dell'infanzia, su come nascono i bambini, alla scuola elementare, su differenze tra maschi e femmine, nel passaggio da elementari e medie sullo sviluppo. Ecco, questa è una cosa che leggiamo insieme. A maggior ragione, proprio perché tu non abbiamo un maschio di famiglia, non abbiamo un uomo di famiglia, prendiamoci un libro, magari vediamo se l'ha scritto un uomo o una donna, oppure chiediamo a uno zio, eventualmente, mentre lo leggiamo, di essere qua anche lui, in modo che se abbiamo bisogno che un maschio dia qualche risposta, usiamo lui. In generale, se non c'è un maschio adulto a disposizione, quindi il papà è molto latitante o non c'è, la mamma provi un po' a progettare un percorso dove possiamo anche mettergli in mano un libro dicendo: guarda, in casa non abbiamo un maschio e un uomo che ti possa dire queste cose, ma dentro questo libro ci sono molte cose che, se ci fosse stato un maschio o un papà, sarebbe stato importante che tu sentissi dire da lui. Lui non c'è, te le racconta questo libro, io sono contento di regalartela come la tua mamma. Direi che di più non possiamo inventarci. Ultima domanda, Gabriele. Volevo soltanto chiedere se qualcuno è a conoscenza di qualche piano tariffario e perché non ci sono, perché a me sembra che non ci siano, qualche, chiamiamolo per individuarlo, team Young o qualcosa del genere, in cui non sia possibile per questi ragazzi non andare sui siti porno, e se possiamo chiederlo, come secondo lei potremmo fare una cosa del genere, anche perché mettiamo le regole che in macchina si va di oltre 18 anni, o a 18 anni si prende la patente, e per dei mezzi così importanti non siamo in grado di farlo. Allora, in realtà ci sono proprio degli abbonamenti per i giovanissimi messi a disposizione, che contengono anche una protezione per minore, e conseguentemente quando voi comprate il pacchetto che viene offerto in modo specifico proprio per i minori, potete comprare anche questa sorta di protezione da siti e navigazioni che non sono adeguate. Attenzione, perché loro sono molto abili poi i figli a toglierlo, quindi voi lo mettete su ma basta una telefonata per toglierlo. Quindi di nuovo, secondo me ha senso dire: te lo compro con queste caratteristiche e voglio che queste caratteristiche rimangano sul tuo abbonamento, e quindi magari questa è l'unica cosa che verificate dentro lo smartphone di un figlio. Faccio io l'ultima domanda, in realtà sono due, una mi è stata suggerita. Ci sono diversi libri, immagino tutti tuoi o di tua moglie, o comunque relativi al tema, se puoi indicarne un paio sull'età, divisi per età, cioè elementari e medie. E la seconda domanda è: di cosa ci parlerai domani sera? Allora, alcuni libri hanno già un po' la fascia d'età, per cui c'è sul nascere, sono tutti un po' centrati sul fatto che nascono, da quali sono i bisogni dei grandi quando devono fare questo lavoro con i bambini. Per cui ci sono dei libri sulla nascita, Così sei nato tu, c'è in una versione per i più piccoli 4-7 e in una versione per i più grandi 7-10, così anche Così sei fatto tu. E invece per i preadolescenti maschi baciare e fare dire, per le ragazze c'è un libro che si chiama Il primo bacio, che metà è fatto per i genitori e metà è fatto per i ragazzi, e in quel senso potete proprio un po' scambiarvi intorno allo stesso libro, sviluppare un po' di idee condivise. E c'è invece un libro proprio un po' su tutti gli aspetti del rischio per i genitori che si chiama E ora basta. Domani sera parliamo di codice materno e codice paterno. Siccome io mi intendo poco del codice materno perché sono un uomo, parlerò un po' più del codice paterno, quindi di alcune delle cose che ho imparato lavorando con gli uomini nel percorso della paternità, proprio dal concepimento all'adolescenza. A che cosa serve un papà, e chiaramente come un papà si sintonizza con la mamma, in particolare perché le mamme vengono da Marte, da Venere i papà vengono da Marte. Benissimo, grazie Alberto. Grazie a voi. Allora, arrivederci domani sera, di nuovo fra le 9:15. Possiamo provare per le 9:15, ormai sappiamo come fare a raggiungere la sede. In bocca al lupo. Buonanotte a tutti.